Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, era Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Adesso abbiamo qualche ospite che è alla ricerca del volume della cuffia. Fra un po' ti aiutiamo, Roberto, così dico già chi c'è questa mattina in trasmissione. Dico solo il nome ma non il cognome, alziamo invece il velo intorno all'argomento. Potevamo farci mancare alla ripresa di Salva Danaio una puntata sui mutui? Ma neanche per sogno, non sia mai. D'altronde sta per ricorrere un anniversario indimenticabile, ci pareva giusto celebrarlo nella maniera degna. Di cosa stiamo parlando esattamente? Un anno fa, tra settembre e ottobre, o comunque alla fine dell'estate, in pieno tsunami finanziario, le tensioni sui mercati e l'acuirsi della crisi finanziaria avevano spinto l'Euribor alle stelle. Il parametro a cui si agganciano i mutui a tasso variabile iniziava la corsa che nel giro di qualche mese l'avrebbe portato a toccare i massimi assoluti. La scadenza a tre mesi, forse la più diffusa, al 5,39%, era l'ottobre del 2008. Eravamo nel mezzo di un vero allarme mondiale. In Italia tutte le famiglie con mutuo a tasso variabile avevano perso completamente il controllo della rata, con la conseguente corsa alla rinegoziazione, sostituzione del mutuo, passaggio da una banca all'altra. Poi, per fortuna, la situazione ha cominciato a normalizzarsi. In seguito agli interventi della Banca Centrale Europea i tassi hanno preso a scendere. Oggi la situazione sembra essere lontana da quella di un anno fa, anni luci. Proprio ieri l'Euribor a tre mesi è sceso a nuovi minimi toccando lo 0,82%, credo che stamattina sia lo 0,81%, è un vero e proprio sollievo per le tasche delle famiglie. Anche se anche questa situazione c'è da dire che non è che sia proprio normale. Ci sembra comunque utile rifare un punto della situazione per tentare di guidare la scelta di chi deve sottoscrivere un mutuo in questo momento, una fase di tassi bassissimi, e dicevamo anche questa ci sembra una situazione che in qualche modo possa essere considerata anomala. Lo chiederemo ai nostri ospiti. Maximilian Ancellino, Plus 24, Il Sole 24 Ore, bentornato. Agosto che per te è stato di lavoro, e quindi il monitoraggio sui mutui non si è mai fermato, Maximilian? No, assolutamente no, anzi ad agosto qualche banca tra le vacanze forse si è mossa anche sul tetto del 4%, per cui siamo stati un po' a vedere che cosa combinava. Ecco, poi ricorderemo in che cosa consiste questa questione del 4%. L'ho citato prima, l'ho evocato prima, Roberto Anedda, direttore marketing Mutui Online, bentornato anche a te, un po' più abbronzato di Maximilian. Sì, riuscito a fare anche una pausa. Non hanno i mutui agitato i tuoi sonni di agosto, per fortunatamente quest'anno fortuna. È stato un agosto sicuramente molto più positivo e fortunato. Ben poi magari ci dirai anche se è stato positivo in termini di richieste di nuove sottoscrizioni, quindi come sta andando il mercato dei mutui in questo momento, quante famiglie stanno pensando adesso di attivarsi con la richiesta di questi finanziamenti per acquistare la propria casa. Allora, 800 24 00 24, potete telefonarci, naturalmente raggiungerci a questo numero verde per porci i vostri quesiti sull'argomento, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. La borsa, ne parlavamo prima nel giornale radio, stamattina è piuttosto negativa. Londra sta perdendo mezzo punto, perdono di più Parigi e Francoforte, meno 0,8 e meno 0,6% rispettivamente, ma ancora di più perde Piazza Affari, FTSE MIB, meno 1,36%. Allora, ci sono diverse ragioni dietro a questo calo. Intanto il mese di agosto è andato piuttosto bene, c'è chi parla di un settembre che sarà invece piuttosto difficile, di una correzione pesante attesa per le borse, chissà che non sia già iniziata. Da tre giorni comunque c'è sempre il segno meno tra le piazze finanziarie. E poi c'è un nuovo allarme negli Stati Uniti, sembra che stiano arrivando nuovi fallimenti nell'ambito bancario. I dati economici sono positivi, anche ieri sono stati diffusi nel settore manifatturiero, nel settore immobiliare di buoni, eppure il mercato guarda agli altri spettri che vengono agitati. Infatti il calo del mercato americano ieri è stato di circa 2 punti. È andato molto male anche il quadro asiatico. Stamattina il Nikkei a Tokyo ha chiuso con un ribasso del 2,37%, e dicevamo di conseguenza male l'Europa. Chi si salva? Piazza Affari, Eni più 1,84, l'automatica in rialzo di un punto, anche Parmalat più 1, più 0,7 Campari, invariata Terna, e abbiamo finito qua l'elenco dei titoli positivi. Tutti negativi tutti gli altri, con una prestazione particolarmente negativa adesso di STM meno 3,8, di Pirelli meno 3,5, meno 3,5 punti anche per CIR, adesso anche per Fiat, che era partita molto bene dopo i dati sulle immatricolazioni di ieri sera, che hanno presentato un agosto che è andato molto bene per le vendite di auto grazie ancora agli incentivi, e poi Fiat ha improvvisamente cambiato direzione, adesso perde anche parecchio. Ma sono soprattutto i titoli bancari i protagonisti negativi degli scambi. Monte dei Paschi meno 3,45, Intesa meno 3,44, e con 3 punti di calo troviamo la Popolare di Milano, il Banco Popolare, Unipol, ma anche Buzzi Unicem, Bulgari, meno 2,5 per Prismian ed Italcementi. Insomma, anche oggi quadro per niente confortante, un po' ce lo aspettavamo, ma forse non siamo poi neanche troppo contenti di questa correzione. Tra l'altro di borsa noi ci occuperemo venerdì a Salvadanaio, domani torniamo sulle multe e sulle tutte le novità in arrivo per pagare anche quelle arretrate. Direi però che possiamo lasciare la borsa, andiamo al tema invece di oggi, un piccolo punto di settembre sui mutui. Un anno fa, in piena crisi finanziaria, l'allarme era sotto gli occhi di tutti. I tassi interbancari erano alle stelle e le rate dei mutui a tasso variabile viaggiavano a livelli insostenibili per la maggior parte delle famiglie italiane. Una situazione che oggi sembra ormai lontana anni luce, considerato che l'Euribor, parametro a cui sono agganciati i mutui a tasso variabile, negli ultimi giorni sta viaggiando intorno ai minimi dello 0,82% a fronte del 5% dell'estate 2008. Un fattore che, se da un lato ha risvolti più che positivi, dall'altro ha ridotto in gran parte la platea dei potenziali beneficiari del cosiddetto tetto del 4%, quella misura introdotta a gennaio con il pacchetto anticrisi e mai applicata dal sistema bancario. Misura con la quale il governo ha chiesto alle banche di restituire ai titolari di mutui a tasso variabile sottoscritti prima del 31 ottobre 2008 la quota di interesse eccedente questa soglia. Proprio a luglio, l'ABI, Associazione Bancaria Italiana, ha inviato una circolare a tutte le associate invitandole ad accettare i moduli di autocertificazione presentati dai clienti. Moduli che inizialmente dovevano servire soltanto per i mutuatari esclusi dall'elenco dell'Agenzia delle Entrate, che certificava gli aventi diritto alla restituzione. Ma anche chi ha regolarmente presentato il modulo non si è ancora visto accreditato sul conto corrente quanto gli spetta. I tempi però sembrano essere ormai maturi e settembre potrebbe essere una volta per tutte il mese buono. Volevo salutare Andrea da Rovigo, che non vuole intervenire sui mutui ma vuole già prenotarsi per la puntata di domani sulle multe. Andrea, le prometto che la chiameremo senz'altro, che cosa ha combinato e quanto è in arretrato con l'amministrazione fiscale per quello che riguarda appunto il versamento delle sanzioni per chi guida in maniera non corretta. Comunque, lasciamo stare le multe e andiamo invece ai mutui. Peraltro, multe previste anche per le banche in ritardo, e questa è una decisione che è stata presa in estate dal governo, in ritardo con le procedure di surroga, sostituzione e rinegoziazione dei mutui. Su questo, Maximilian, a che punto siamo? Ma siamo un po' in alto mare anche su questo. Molti, allora, devo dire, molti scrivono anche online a Mutui 24 segnalando, chiedendo come si fa materialmente per avere questo rimborso che è dell'1% del capitale. Penso il capitale residuo, non il capitale iniziale. Non è stato specificato questo dalla legge, dal nuovo decreto anticrisi. E devo dire che anche da questo punto di vista non c'è alcuna norma chiarificatrice, niente di attuativo. Attenderemo qualcosa da questo punto di vista, perché sotto questo aspetto, perché appunto praticamente bisogna capire come si deve fare, a chi rivolgersi. In teoria dovrebbe essere a pagare questa penale, anzi a rimborsare questo 1%, dovrebbe essere la banca cedente. Mm-mm. Perché si presuppone che sia la banca cedente a fare un po' di ostracismo, resistenza. La quale banca cedente, se si appura che il problema della banca subentrante, può comunque rifarsi sulla banca subentrante. Comunque quello che conta per le persone, per i mutuatari, è che potrebbero avere un 1%, un rimborso dell'1% sul capitale per ogni mese o frazione di mese in più che di ritardo rispetto ai canonici 30 giorni dalla richiesta della della surroga. Quindi insomma, dovrebbe esserci un foglio firmato. Però viaggiamo sempre con il condizionale. Sì, io dico viaggiamo con il condizionale. E se ci rifacciamo al discorso del tetto al 4%, quanti interventi prima di avere una normativa più o meno chiara? Esatto. 7, quanti ce ne sono stati di chiarificazione? 7 sulla surroga, qui ce ne sono stati, ecco, diciamo 3 o 4 più o meno. Sette, i famosi 7 interventi sono sulla surroga. E questo è comunque un altro problema che riguarda la surroga. E io mi aspetto e auspico comunque un intervento, una circolare del Ministero chiarificatore, o un intervento dell'ABI che proprio praticamente detti la linea su come farà ottenere. Allora, queste sono le questioni in sospeso. Ci sono però tante famiglie in sospeso invece con la propria banca, perché hanno comprato casa di recente, Roberto Anedda, e hanno cercato di orientarsi nell'offerta di mercato molto vasta, molto importante, e le banche si sono date un grande affare negli ultimi anni, un po' meno con i provvedimenti del governo e il sostegno alle famiglie, un po' di più ovviamente per mettersi così alla pari con un mercato che è stato molto molto in fibrillazione negli ultimi anni. Allora, dicevamo prima, io introducendo la nostra trasmissione, abbiamo ricordato quello che è successo un anno fa, parlavamo di quella situazione anomala che si è creata sui mercati con l'Euribor che era letteralmente schizzato alle stelle, travolgendo molte famiglie che sicuramente non si aspettavano una situazione del genere. Adesso sei d'accordo quando io dico che abbiamo sul mercato, dal punto di vista dei tassi di interesse, una situazione altrettanto anomala come un anno fa, anche se di direzione opposta? Certamente, siamo ai minimi storici di sempre. Già la vostra scheda introduttiva parlava di un Euribor a 3 mesi sotto l'1%, quello a 1 mese, che poi nell'ultimo anno è ritornato, diciamo, ad essere quello più utilizzato anche dalle banche come indicizzazione di mutui, addirittura è sotto lo 0,50, quindi questo ha fatto sì che il calo degli Euribor rispetto ai massimi che erano del 7, dell'8 di ottobre di appena un anno fa, abbia portato a un calo di oltre 4 punti, il che vuol dire, per dare un'idea, esempio, su un mutuo da 100.000 euro vuol dire un risparmio per una famiglia in termini di interessi passivi pagati di oltre 3.000 euro in un anno. Una durata media di 20 anni, mettiamo, esatto. Sì. Se fosse 30 anni sarebbe anche un pochino di più. Quindi sicuramente delle cifre molto importanti e appunto condizionate da quella che è stata la situazione dei mercati, prima di estrema fibrillazione, grande incertezza, poi a seguito dei vari interventi delle banche centrali, anche così il solo passare del tempo, il fatto che via via si dipanavano una serie di nebbie e dubbi sulle possibili andamenti dell'economia, adesso ci si è da un lato rassegnati a un orizzonte di lungo termine per la ripresa economica, se non altro, tranne appunto le notizie che sentivamo anche poc'anzi, minori timori forse di grossi crolli, e quindi una stabilizzazione verso il basso, verso i minimi, perché poi spazio di ulteriori cali onestamente se ne possono vedere ben pochi, e con una situazione quindi altrettanto anomala, anche se è probabile che possa protrarsi nel tempo. Esatto. Niente di strano che ancora l'anno prossimo potremo avere dei tassi molto, certo, vicini a questi livelli. Anomala è, come dire, un'accezione non totalmente positiva. Sicuramente questa situazione sta rendendo di nuovo straordinariamente conveniente il mutuo a tasso variabile, perché livelli così bassi, dicevi, non si sono mai visti probabilmente, però attenzione anche ad una scelta sbagliata in questo momento. Dobbiamo avere piena coscienza, e una situazione anomala in termini negativi, l'abbiamo visto un anno fa, di quella a cui potremmo andare incontro, per cui adesso sì, sicuramente la rata che ci verrebbe che si verrebbe a formare per un qualsiasi tipo di mutuo a tasso variabile sarebbe molto bassa, però attenzione perché potrebbe di nuovo esplodere, per cui va bene la convenienza del mutuo a tasso variabile, Roberto, però ricordiamo anche cosa... No, certamente. Tra l'altro, nel parlare di tassi ai minimi storici, dobbiamo precisare che stiamo parlando sia di tassi variabili che di tassi fissi, perché anche i tassi fissi comunque sono a livelli molto bassi, data questa situazione di mercato. Ovviamente sono più alti perché si ipotizza che nel lungo termine i mercati andranno a riequilibrarsi, però parliamo comunque di tassi che sono anche nel caso di alcune banche sotto il 5%. Mm-hmm. Pensare a un tasso garantito sotto il 5% o comunque intorno al 5% per una disponibilità di capitale di 20 o 30 anni è certamente una bella sicurezza. Da un lato è vero che la tentazione del variabile è sempre più forte, non a caso negli ultimi mesi è tornata ad essere preponderante la parte di nuovi mutuatari, di nuove richieste di mutuo orientate al variabile, perché c'è comunque una differenza di anche oltre 3 punti, ormai i migliori tassi variabili partono abbondantemente sotto il 2%, e quindi ancora una volta, con il nostro mutuo da 100.000 euro parliamo di una rata di partenza di quasi 200 euro in meno. Però, e io sottoscrivo pienamente quello che dicevi tu poc'anzi, attenzione, non si consideri in nessun modo, se si fa un mutuo a tasso variabile, che questa possa essere la rata di riferimento anche in futuro. I tassi sono sicuramente destinati a essere più elevati in un futuro che è ben difficile. Magari non dire, con una non situazione schizofrenica come quella che certo. si è verificata lo scorso anno, ma nel lungo termine potrebbero anche riportarsi su quei livelli. Quindi esatto. No, tra l'altro quello che io volevo anche raccomandare ai nostri ascoltatori, ovviamente adesso continuiamo a guardare i tassi di riferimento, l'Euribor, ma ovviamente la banca nel momento in cui ci eroga il mutuo non è che ci applica solamente l'Euribor. Maximilian, un'altra bella questione è quella degli spread, di quel margine di guadagno che la banca ovviamente applica sui tassi di interesse. Sì, è sotto gli occhi di tutti che un anno fa, diciamo un anno e mezzo fa, era abbastanza comune trovarsi uno spread, cioè il ricarico che la banca applica sul tasso di riferimento sia Euribor per il variabile sia IRS per il tasso fisso. Era abbastanza comune trovare questi spread anche sotto l'1%. Adesso è veramente molto difficile, qui Roberto Nedda potrà anche aiutarci per vedere le offerte che si trovano online, e gli spread in molti casi sono anche raddoppiati. Una cosa appunto sono le offerte che si trovano online, una cosa sono quelle che si trovano allo sportello, che sono sempre, ricordo, ancora una volta contrattabili nei limiti della forza di un cliente. Però allo sportello, insomma, vedo anche segnalazioni da utenti, da clienti che ci parlano di spread già superiori anche al 2%. La soglia del 2% è stata abbattuta. Qui c'è stata la crisi finanziaria che ha reso molto più difficile anche per le banche approvvigionarsi e prestarsi denaro e ha avuto i suoi effetti. Certo, la crisi, il congelamento dei mercati interbancari, la crisi sui mercati interbancari si sta un po' alleviando, attendiamo anche di vedere qualche segnale positivo sugli spread, magari non ce li attendiamo tornare sotto l'1%, però magari frenare questa tendenza abbastanza, questa tendenza è nata ormai da più di un anno e mezzo al rialzo degli spread, possiamo sperarlo. Anche quel parametro me. Là, insomma, potrà probabilmente tornare a normalizzarsi. È un augurio. Allora, io sono un po' indecisa se cominciare a sentire i nostri ascoltatori le domande, non vi dico già quante ne stanno arrivando, e proprio sulla questione degli spread molti ascoltatori, insomma, sostengono che le banche fanno le furbe, chiamiamola pure furbizia. Di fatto il mercato finanziario ha comportato tutta questa sfiducia nell'ambito del sistema bancario e questo ha provocato la crescita appunto degli spread, come abbiamo avuto modo di spiegare pochi minuti fa con Maximilian Cellino. Volevo però subito leggere un messaggio, perché altrimenti generalmente privilegio le telefonate a discapito dei messaggi dei nostri ascoltatori. Oggi vediamo di accontentare un po' tutti, perché questa è una situazione molto curiosa, quella che ci raccontano Andrea e Adelina da Como, che dicono: abbiamo un mutuo dal 1995, sono rimasti un paio di anni da pagare, e però noi invece che diminuire la rata ci è aumentata. La nostra banca Intesa dice che è un mutuo alla francese, che è giusto così, se è vero che, sfortunati che siamo, utilizzano un altro termine. Allora, non è questione di sfortuna, è ancora una volta una questione purtroppo di non conoscere come funziona un mutuo, nella fattispecie quello alla francese, che ci fa pagare tutti gli interessi praticamente nella prima parte del piano di ammortamento, Roberto Anedda, e alla fine che cosa rimane? Come mai è aumentata la rata di questi ascoltatori? Non hanno alcune influenze ai tassi di interesse in questo caso, nell'aumento della rata? No, l'influenza è unicamente dovuta al metodo del calcolo del piano d'ammortamento alla francese, e lo riscontrai anche col mutuo che avevo io, perché effettivamente anche negli ultimi anni in cui si paga solo capitale, per cui di interesse si paga ben poco, la rata paradossalmente, se ci si trova in una situazione di tassi in calo o comunque stabili, aumenta semplicemente perché la quota capitale di ogni singola rata che via via aumenta, cioè il piano di ammortamento viene costruito in modo che alla rata 1 io abbia una quota di capitale, poniamo, di 100, e alla rata 240, se ho un mutuo da 20 anni ad esempio, questa quota sarà invece, ipotizziamo, 250. Quando io calcolo il piano di ammortamento complessivo, capitale e interessi, l'importo delle rate è sempre lo stesso, perché si ipotizza un tasso fisso. Poi ovviamente se invece il tasso è variabile, i miei interessi saranno influenzati dall'andamento del tasso stesso. Ma anche negli ultimi anni, quando ormai mi manca poco da pagare, quindi effettivamente non dovrei più risentire degli effetti degli interessi che aumentano, diminuiscono sul tasso, c'è comunque questa componente di capitale che proprio strutturalmente, per come funziona la restituzione con questo tipo di piano d'ammortamento, fa sì che rata dopo rata, ma questo fin dalla prima, se effettivamente Andrea e Adelina se vanno a recuperarsi il loro piano d'ammortamento iniziale, quello che la banca deve avergli allegato in contratto certo, nell'ormai lontano 95, fortunati loro che comunque almeno stanno finendo il mutuo, esatto, potranno vedere che nel calcolo effettivamente le piccole quote capitali iniziali man mano vanno ad aumentare. Crescevano, certo. E quindi purtroppo c'è anche un po' questa cosa che ogni tanto spiazza alcuni mutuatari. Uno, quando arriva alla fine del pagamento, è convinto di vedere ormai la rata in diminuzione, e invece questa può tendere ad aumentare proprio perché c'è comunque il capitale che via via io devo rimborsare. Tra l'altro, chi ha mantenuto, mantenendo anche i nervi saldi un anno fa, il mutuo a tasso variabile, nota anche che adesso c'è uno squilibrio in termini positivi molto ampio tra la quota capitale e la quota di interessi della propria rata. E comunque questo, perché ha mantenuto il tasso variabile, un momento buono, perché sta restituendo gran parte del proprio capitale, e mentre una fettina molto piccola di interessi. Però mi rendo conto che è un meccanismo abbastanza complesso da spiegare, e anche qui ci sarebbe tanto da fare magari per creare dei prodotti semplici, insomma un'applicazione dei tassi abbastanza elementare, ma diciamo che il invece è che l'offerta tante volte è molto sofisticata. Tante volte abbiamo detto anche qui, quando si fa un mutuo, al di là del concentrarsi sulla rata iniziale, quindi quello che dicevamo anche prima, pensiamo se si fa un tasso variabile anche in prospettiva, studiarsi un po' tutto e quindi vedere anche nel piano d'ammortamento non solo quello che succede nelle prime rate ma anche nelle ultime, in modo che uno un domani, e invece comprando casa si pensa un po' di più alle piastrelle nuove, al parquet, però è così, infatti, quello che sta facendo Maximilian proprio in questo momento. Salvadanaio, ci siamo di nuovo ricacciati nella giungla dei mutui, perché non saprei come altro definirla, e lo abbiamo appreso amaramente nel corso degli ultimi anni con tutte le novità che sono arrivate, con tutte le questioni legate ai tassi che sono esplosi, adesso che sono riscesi, e poi gli interventi normativi per permettere alle famiglie italiane di spostarsi da una banca ad un'altra, di alleggerire il peso della rata. Insomma, ci sono sempre tante cose di cui parlare quando scegliamo questo argomento, e ovviamente grazie anche alle vostre domande vivacizziamo non poco la nostra trasmissione. 800 24 00 24, sono già pronti i tre ascoltatori e sono pronti anche a rispondere alle vostre domande il nostro Maximilian Cellino, plus 24 del Sole 24 ore, il nostro Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online. Massimo, cominciamo con lei, buongiorno. Buongiorno, Massimo di Vicenza, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono dovuti. Grazie Massimo. Niente, mi avete in parte già delucidato tutto quello che volevo chiedervi, perché siete stati perfetti nell'esamina che ho vissuto proprio io nell'introduzione di cui parlava all'inizio. Sì. Perché io ho sottoscritto un mutuo proprio più o meno a luglio dell'anno scorso, quindi è da un anno che sto pagando. E l'importo più o meno è quell'importo classico, diciamo, dei 100.000, che quindi è la base, diciamo, che avete citato prima anche voi con i vostri interventi. Sì. No? Io ho avuto delle grandi difficoltà nel momento in cui mi sono reso conto che ad ottobre aveva raggiunto i punti massimo, come aveva introdotto prima in trasmissione, e così di passare al tasso variabile, perché avevo ben pensato, per paura, di fare il tasso fisso che era molto alto. Sì. Proprio ieri, inaspettatamente, e direi con una banca che comunque ha dato delle risposte molto particolari, nel senso mi hanno seguito molto poco, secondo il mio punto di vista, nonostante ci siano queste leggi di cui tanto si parla, cioè hanno fatto un po' il bello e il cattivo tempo come hanno voluto loro. Proprio ieri ho avuto la risposta che comunque mi passano a variabile. Sì. Volevo appunto chiedere se, secondo il vostro punto di vista, ho fatto la cosa giusta, perché ho vissuto molto male questa situazione. Massimo, cioè, quanto dura il suo mutuo? Intanto l'importo dura, ce l'ha detto. Dura 20 anni. 20-100, quindi esattamente i parametri proprio classici, insomma, di erogazione di un mutuo. O meno, diciamo, è qualcosina di più di 100, però sulla linea, insomma, discutibile, nel senso, per tutti. esattamente così, quindi non con poche difficoltà e con grandi amarezze da parte mia, è noto che comunque questi istituti, cioè, non sono così pronti, comunque, come dicono, nel momento in cui fanno la sottoscrizione, a venirti incontro, ma neanche a darti delle risposte che possono anche essere. Lo so, Massimo, sa com'è, poi la crisi finanziaria, io ritengo che ci sia anche un'altra cosa. Penso che fino a qualche anno fa magari qualche direttore di banca avesse molta più libertà di scelta anche nel trattare con i clienti. Poi è arrivata la crisi, sono arrivate delle direttive centrali che i direttori hanno fatto molta più fatica ad applicare in maniera individuale in rapporto alla propria clientela. Aspetti lì, Massimo. Roberto, volevi chiedere una cosa? Non ho capito se poi ha cambiato banca o è rimasto lei è rimasto, Massimo, con la stessa banca, quindi ha rinegoziato il suo mutuo. No, io ho rinegoziato solamente il tasso. Esatto. Cioè, io avevo il 6.1%. E vedendo appunto come stavano cominciando le cose, a scendere, sì. Ho fatto due conti, ho visto che più o meno sul mio importo, che come ripeto è superiore a quello che le dicevo prima, sì, dei 100.000 euro, ma non di molto, risparmio quasi 250-270 euro al mese, certo, che sono i 3.000 euro che citavate prima voi nell'intervento, perché avete già risposto a tutto quello che praticamente vi volevo chiedere nel vostro commento che avete fatto. E penso di avere fatto un 13 al totocalcio. No, ma certo, Massimo, la questione è che dal punto di vista della convenienza economica attuale lei sicuramente ha fatto il 13 al totocalcio, perché dicevamo, una situazione come questa chissà mai quando ci ricapiterà e soprattutto quanto durerà. Adesso il tema è che nel lungo periodo i tassi torneranno a salire. Il suo tasso si chiama variabile proprio per questo motivo, perché comunque ricambierà nel tempo. Maximilian, un consiglio allora: con quel 13 al totocalcio, parte di quei soldi che lei sta risparmiando non li spenda, se li tenga un po' lì per i momenti in cui l'Euribor non sarà più a questi livelli, ma molto più elevato. Una risposta generale non si può dare, perché dipende, esatto, da molti parametri, tra cui il reddito della persona. Se una persona che ha un reddito particolarmente elevato, lui si è tranquillizzato molto in questo momento, ha sicuramente fatto la scelta giusta, magari il peso per lui adesso è un po' meno fardello della sua rata e quindi è più sereno, e questo è già un vantaggio che non è economico, è emotivo. Maximilian, però non è una stupidaggine. Sì, io direi sono due cose: i parametri principali oltre alla propensione al rischio di una persona sono il reddito, perché se il reddito è particolarmente elevato è chiaro che gli sbalzi della rata si sentono molto di meno, mentre invece se sia al limite, dico già un rapporto 30-40% del reddito disponibile, rata reddito disponibile, già lì bisogna fare più attenzione, andare su un variabile, soprattutto in questo momento. L'altra cosa che è molto importante è anche la capacità di gestire il proprio risparmio, perché lei adesso sta risparmiando molti soldi ed è chiaro che se riesce a metterli da parte potrà poi utilizzarli in seguito, nel momento in cui inevitabilmente le rate diventeranno più elevate, e soffrire nei momenti in cui le rate saranno elevate per guadagnare poi a lunga andare, quando in momenti come questo. Però ci vorrei mettere anche un altro aspetto per Massimo, ma anche per gli altri ascoltatori che magari si trovano in una situazione analoga. Roberto, adesso è molto difficile, è stato molto difficile nell'ultimo anno e mezzo rinegoziare, sostituire, surrogare, avere un rapporto con la banca sereno, perché le banche non avevano da gestire solamente il problema dei mutui dei propri clienti, avevano tante questioni da gestire. Magari fra un anno, fra due anni, tre anni, tutto ciò che attiene alla portabilità del mutuo dovrà necessariamente diventarlo più semplice. Quindi Massimo, se la rata riprenderà a salire, e questo succederà inevitabilmente, potrà anche valutare di spostarsi da una banca che magari gli farà un'operazione di erogazione del mutuo più conveniente, per cui speriamo che il mercato diventi molto più flessibile rispetto ad ora. Sì, certamente la stessa surroga rispetto a due anni e mezzo fa quando partì è comunque già più avviata, più diffusa, più semplificata. Rimangono tutta una serie di lacune, ma che riguardano comportamenti di singoli istituti, addirittura singole filiali, quindi non abbiamo più le, come dicevamo, grandi, infatti, problematicità di prima. E tant'è vero che, nonostante i tassi adesso siano bassi, in tanti stanno continuando a utilizzare la surroga, soprattutto per fare operazioni simili a quella che ha fatto Massimo, cioè passare addirittura dal fisso al variabile, proprio per questa prospettiva, almeno nel breve, di rate molto più basse, e quindi accumulare quel risparmio che consigliava giustamente Maximilian, mettere almeno in parte, così, non dico sotto il materasso, ma comunque come riserva per affrontare i futuri, perché sicuramente ci saranno, aumenti dell'Euribor. E anche qui i calcoli vanno fatti di volta in volta sulla base del fisso che uno ha. È un fisso del 6% e passa, come ce n'erano tanti l'anno scorso, anche 2 anni fa, come quello di Massimo, danno un margine di risparmio ancora maggiore rispetto ai fissi che adesso troviamo sul mercato, che dicevamo, che dicevamo sono intorno al 5%, e quindi il margine di sicurezza e di risparmio è ancora più elevato, ma a maggior ragione vale la pena approfittarne e accumulare almeno in parte questi risparmi, proprio perché in futuro anche gli eventuali aumenti della rata potranno essere affrontati con maggiore serenità. Certo, mi sono scordata di chiedere a Massimo quanto spread applicasse la banca, perché magari in un futuro, se questo è particolarmente alto oggi, negli ultimi anni abbiamo visto come la prima cosa che ogni sottoscrittore di mutuo è andato a fare con la propria banca, intanto dice abbassami questo, poi vediamo se è necessario fare anche qualcos'altro. Volevo sentire Roberto da Piacenza, perché sono davvero curiosa, Roberto, di sapere qual è la banca che ha adottato nei suoi confronti questo comportamento, e lei ci deve dire nomi e cognomi. Buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, sono scontati perché siete una radio di servizio. Grazie Roberto, ci dica. Allora, io alla fine di luglio ho fatto questo, ho dovuto fare il rogito, e l'ho dovuto fare alla fine di luglio perché ero proprio il giorno prima della scadenza annuale di una vendita che avevo fatto, quindi per non perdere i benefici di legge. Certo, si è fatto i suoi calcoli, IVA. Insomma, è stato necessario portare, condurre importi. Quindi ho fatto questo, ho acquistato casa, abbiamo fatto il rogito e mi ero accollato, cioè ho chiesto l'accollo, vedendo le condizioni, ho chiesto l'accollo da parte del costruttore, fra l'altro un importo che era abbondantemente sotto il 50% del valore dell'immobile. E se non che, io dico, vabbè, quali sono le condizioni, va bene, il giorno del rogito, 5 minuti prima che firmassi il rogito io, cambiano le condizioni dello spread. Praticamente la banca è il Banco di Sicilia, del gruppo Unicredit, cambia le condizioni con il costruttore, che era lì davanti a me, e applica l'Euribor a 3 mesi, sì, e uno spread del 3%. Il 3% per un mutuo che mi pare di capire non sia neanche elevatissimo. Dico, guarda che il 3% mi mette in difficoltà, perché con qualsiasi banca, altra banca, vado a negoziare, mi presento partendo da un 3%, quindi se questi mi fanno il 2,5, il 2,2, devo anche dire. Ma certo, ma io penso che sopra il 2%, parlavamo prima di questa soglia che è stata toccata solo di recente da qualche banca, il 3% ci sembra ancora al di fuori di ogni considerazione. Roberto, mi scusi una cosa, quanto aveva pattuito inizialmente? Perché lei comunque un primo esame della sua situazione. Il costruttore aveva uno spread dell'Euribor più l'Euribor a 3 mesi più l'1,4. Abbiamo pensato di più che raddoppiarglielo. Io sono andato dalla mia banca, sono andato e ho detto guarda, farò una surroga, per cui non sposto conto corrente, non sposto niente, faccio una surroga, mi dice ok, va bene, quali sono le condizioni, c'è uno spread dell'1,4, ho detto che condizioni mi fate, ma tranquillamente, voglio dire. Roberto, adesso lei che ha fatto? Quindi il rogito l'ha dovuto firmare perché aspettare un mese per quanto riguarda il consolidamento dell'ipoteca. E mi sono attivato per fare immediatamente la surroga. Certo. Adesso il problema che mi pongo io è di non trovarmi ostaggio poi in questa situazione, da dover per forza pagare questo 3% per vari cavilli o che, ecco. Speriamo di no, quale cavillo potrebbe mai esserci? Allora, qual è il software che hanno le banche, Maximilian? Alcune banche hanno un software dove inseriscono i dati della persona che diciamo solidità patrimoniale del cliente che si trova di fronte, o i dati presunti, e viene fuori lo spread. Anzi, hanno uno spread massimo e a seconda dei dati che inseriscono all'interno uno può ottenere, diciamo, degli sconti. Però, insomma, la situazione di Roberto, voglio dire, si è accollato il mutuo, è un costruttore, non mi sembra una situazione del tutto, una circostanza del tutto particolare. Lui dice ha chiesto anche un mutuo che era ben al di sotto del 50% del valore della casa, ma anche questa, insomma, è una situazione che non ci sembra molto, non tanto particolare, ma piuttosto diffusa. Questa situazione che si è trovata a gestire il giorno del rogito, dall'1,4% che era quello spread che lui aveva individuato inizialmente quando ha cominciato a studiare la sua pratica, al 3% del giorno del rogito, comunque 3% siamo al di fuori di ogni, anche più alti in questo momento, Maximilian. No, più alti non ne ho visti, ma del 3% ne ho visti. Ne hai anche visti. Tra l'altro, lo stesso gruppo. Ecco, cosa doveva fare Roberto quel giorno secondo te? Quel giorno secondo me poteva fare molto poco, perché lui è lì di fronte al notaio e deve firmare, non c'è più il tempo materiale per andare a cercare nient'altro, si deve attivare subito un minuto dopo per fare una surroga e questo ha fatto. Diciamo alcuni dati non sappiamo di Roberto, per esempio lui parla di questo 1,4%, come era venuto fuori, probabilmente non so se era in mutuo del costruttore che era stato fissato magari 2 anni fa, ecco in 2 anni le condizioni cambiano molto, gli spread sono raddoppiati, da 1,4 si passa al 3%. Certo, trovarsi proprio all'ultimo giorno con una variazione così importante, c'è da pensare anche che insomma la banca non si è comportata molto bene, o chi ha mediato con la banca, perché può darsi ci fosse anche un mediatore nel mezzo, magari lo stesso costruttore con l'accollo, non sia stato proprio trasparente. È un eufemismo ovviamente, perché trovarsi proprio 5 minuti prima con uno spread così cambiato è troppo. Cosa probabilmente si può aggiungere in generale, quando si va a scegliere un mutuo, di modo da allargare un po' il discorso anche ad altri casi, non al caso specifico, è chiaro che quando si va a scegliere un mutuo passano sempre almeno uno o due mesi prima della... Allora ecco, in questo frangente, in questo lasso di tempo, giro la domanda a Roberto Nedda, cosa bisogna fare? Dobbiamo chiamare la banca tutti i giorni per chiederle se ha intenzione di modificare le condizioni pattuite inizialmente, visto che stiamo apprendendo che è possibile che capiti anche molto di frequente, quindi cominciamo ad attivarci con questa buona abitudine? Non dico tutti i giorni, ma almeno una volta a settimana? No, sicuramente occorre, nel momento in cui si contatta la banca, chiedere, rispetto allo spread che viene dichiarato al momento, per quanto tempo può essere considerato valido, e comunque è sempre buona prassi, perché appunto meglio prevenire finché si può piuttosto che dover gestire le problematiche dopo, fare una chiamata alla banca un paio di settimane prima di monito per dire: non è che mi state cambiando lo spread, comunque non ci sono sorprese, perché io ho già visto tutto, i documenti già li ho visti, non voglio trovarmi lì poi con condizioni cambiate. Poi in una situazione normale un cliente può anche alzarsi e lasciargli banca e notaio senza firmare nulla. Roberto, devo dire, data la sua situazione, che altrimenti avrebbe perso, ma poi non lo si fa, lo sappiamo benissimo che è molto difficile. Le possibili agevolazioni del mutuo, ha fatto bene da questo punto di vista a firmare, pur accettando questa... un comportamento inqualificabile da parte della banca, e ancora meglio ha fatto attivarsi un minuto dopo appena uscito dallo studio del notaio a cercare una surroga, ovviamente a condizioni ben migliori. C'è da dire che la sua sfortuna è stata anche quella di capitare con Unicredit in questo caso, perché Unicredit purtroppo è una delle banche che nell'ultimo anno, dopo la crisi dei mutui, ha risentito maggiormente. Parte tutta in salita la mia stagione autunnale di salvadanaio, già capito. Però purtroppo è così, che capita. È nei dati, non per la banca in sé, però è una delle banche che è diventata più rigida nelle condizioni applicate, ed è quella che, come notava anche Max poco fa, ha aumentato maggiormente gli spread. La grave scorrettezza nei confronti del cliente, per di più il cliente, Roberto era cliente della banca, quindi ha chiesto alla sua banca di trasferire il mutuo del costruttore alla sua banca, quindi sarebbe dovuto essere se pensiamo che la nostra banca storica ci faccia un trattamento più favorevole solo proprio perché abbiamo il conto corrente, magari i prodotti di investimento, sappiate lo che diciamo adesso non c'è sconto per nessuno. Lo diciamo da anni, ma è difficile. Ogni banca inevitabilmente guarda dentro se stessa. Soprattutto adesso. E tra l'altro stanno continuando ad arrivare telefonate di persone che vorrebbero riproporci casi simili a quelli del nostro ascoltatore precedente. Maximiliano, no, perché c'è anche un altro tuo cavallo di battaglia che ci vuole proporre un ascoltatore. Rapidamente, le banche, quando andate a chiedere un mutuo, vi propongono lo spread. Chiedete, come diceva Roberto in precedenza, quanto vale quello spread lì. Alcune banche, perché personalmente faccio spesso delle prove anche per motivi di lavoro, alcune banche sostengono dicono chiaramente: no, questo è sicuramente lo spread, lei lo fissa adesso e fra 2 mesi avrà questo, e sono chiari nel dirlo, e secondo me anche più trasparenti. niente vieta. Ci sono altre banche che invece dicono no, non possiamo garantirle che questo spread sia quello che lei avrà fra due mesi, per cui anche quando andate a scegliere un mutuo tenete conto di questo. Peraltro non è detto che lo spread si abbassi, in passato è successo quando gli spread scendevano, persone che hanno fissato adesso in precedenza uno spread dell'1% se lo sono visto abbassare allo 0,8 quando sono andate a firmare. Questo è un caso favorevole. Infatti Flavio da Treviso, lei pure le è successa la stessa cosa, mi pare, no? Sì, più o meno sì, è successo proprio questo. Ho concordato con la banca uno spread che aveva uno spread dell'1,4 con un cap del 5,50 oppure in alternativa l'1,10 se sottoscrivevo una polizza vita. Eccola là che a me interessava. E dovevo sottoscrivere il mutuo nei prossimi giorni. Settimana scorsa sono andato in banca per chiudere il tutto, mentre no, queste condizioni non le posso più mantenere. Adesso le condizioni sono cambiate. Abbiamo aumentato lo spread dall'1,1 all'1,3. Quando deve dall'1,1 all'1,3, beh, insomma, prima di arrivare poi tra l'altro a quel 3% di prima, quando deve reagire Flavio? E settimana prossima. Quindi anche lì non si fa neanche più in tempo, in ogni caso. Non è successo davanti al notaio, però. Flavio, veda un po', adesso vado a Rogito e poi magari fra qualche mese dia un po' di pungolo alla banca e cominci a chiedere ad altre condizioni migliori e magari troverà sicuramente di meglio. Tra l'altro Flavio, la condizione era anche quella di sottoscrivere una polizza vita, abbiamo però ricevuto una mail di Simone da Vicenza, mi è arrivata proprio questa mattina perché Simone aveva sentito a Soldi Dintorni che avevo annunciato la puntata sui mutui e lui dice che ha notato che di questi tempi gli spread più vantaggiosi non sono quelli dei vari siti web tipo Mutui Online, Roberto, ma si trovano nelle banche tradizionali, ne cita qualcuna, a patto che naturalmente vengano sottoscritti alcuni prodotti di investimento. Simone la interpreta questa come una condizione molto vantaggiosa, ma per esempio il Banco Popolare chiede di acquistare un pacchetto minimo di azioni e ha in questo caso uno spread sul mutuo molto vantaggioso. Simone, io tutto il vantaggio di questa operazione, di questo non lo chiamo ricatto, ma che cosa significa erogare un mutuo? Devo comprare casa mia, però al contempo tu prenditi un pacchetto delle mie azioni. Ma Roberto, sì, poi bisogna vedere anche la riduzione, perché Simone parla di spread che in questi casi possono scendere allo 0,90% intorno allo 0,91%, quindi rispetto ai migliori tassi online o anche presso alcune banche che sono dell'1,20, stiamo parlando alla fine per il solito mutuo da 100.000 euro di 12 euro in meno al mese, che vuol dire che ora che accumulo i 1.000 euro richiesti di sottoscrizione di azioni passano 6-7 anni, quindi comunque è un qualcosa che pago. E in più il problema delle azioni è che possono anche, sappiamo, essere esposte a oscillazioni. Parliamo di piccole cifre, per carità, non stiamo parlando di grandi investimenti. Gli è stato proposto però un pacchetto, è anche vero che, insomma, che le consulenze che noi facciamo a tutta la clientela con la quale parliamo, cioè il cliente sta attento anche ai singoli 1.000 euro, se può chiedere 1.000 euro in meno di mutuo, se può tenersi 1.000 euro in più a disposizione è più contento. Quindi inevitabilmente ci sono diversi punti di vista, così come il caso di Flavio che richiamava la banca che fa degli spread più contenuti, anche di 20-30 centesimi di punto, se viene sottoscritta una polizza vita. Poi nel suo caso specifico gli interessava, infatti. E quindi è un costo che lui sostiene volentieri, perché ha comunque una copertura. C'è da dire che la polizza vita di per sé, visto quello che è successo negli anni scorsi sui mutui, dovrebbe diventare, a mio giudizio, sempre più una soluzione a cui le famiglie dovrebbero pensare, ovviamente considerando i diversi costi, quindi non sottoscrivendo alla cieca, perché altrimenti cadiamo in ulteriori problemi, ma è una tutela di lungo termine per le famiglie non indifferente. Allora, un minuto di tempo, Vincenzo da Caserta chiede il rimborso da gennaio a giugno di quanto ha pagato al di sopra del 4% dei tassi di interesse. Vincenzo, io non riesco a farle intervenire, risparmio una telefonata perché vado subito a Maximilian Cellini in 40 secondi. A che punto siamo? Qualche banca sta cominciando a restituire l'eccedenza? Sì, infatti Vincenzo avrei voluto chiedere di che banca si tratta. Vincenzo, qualche banca ce la può dire al volo? Sì, pronto? Buongiorno, sì, rapidissimo perché sto chiudendo. Buongiorno, allora, cari Parma Credit Agricole, io ho fatto la domanda il 16 luglio 09 tramite io volevo sapere, solo questo volevo chiedere, se dal momento della della, diciamo, della richiesta, no, per avere il rimborso, sì? Quanto tempo deve passare, considerate che l'ho fatto il 16 luglio? Vincenzo. Guardi, non c'è un, rispondo molto rapidamente, non c'è un tempo preciso, molte banche si sono già... ING Direct ha restituito già... Sì, ma anche altre banche non particolari come ING Direct hanno già rimborsato parte di questo... parte e qualcuno anche per intero questo contributo. Non è il caso di Cariparma, credo che nei prossimi mesi potrà avere quanto le spetta. Il problema semmai c'è se il suo non è un classico mutuo a tasso variabile ma un mutuo a tasso misto, e su questo si apre un tasto però se la banca ha dato l'opportunità di sottoscrivere l'autocertificazione, l'ascoltatore forse in questo caso è disponibile a restituire. Sì, credo che eccedenza. Il 16 di luglio l'abbiano data a tutti, perché non sapevano già ancora che pesci prendere. Però va bene, vi ringrazio tanto, devo chiudere, vi saluto, ma ci risentiamo, ricompongo la storica coppia naturalmente fra qualche settimana sicuramente. Buona giornata, ci sentiamo domani.